versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui da Milano, 16:36, primi 43 secondi in questo venerdì 17, ma noi non siamo scaramantici. Vado subito alla questione di cui ci occupiamo in questi minuti, il versante su cui si è più acceso all'indomani del varo tramite slide delle leggi di stabilità, perché avrete capito ieri che comunque avevo la versione giusta della bozza, perché quella approvata davvero ancora il governo non ce l'ha data, ha detto che tra poche ore dovrebbe arrivare oggi. Ma detto tutto questo, avete visto che la bomba che è esplosa, quella più calorosa per così dire, più calda anzi, è quella delle proteste delle regioni per nella ripartizione dei miliardi di euro taglia spesa. Dei 4 miliardi chiesti alle regioni, sono 6 complessivamente tra regioni, comuni e province. Comuni 1,5 miliardi e province, le vecchie province che rimangono come enti di secondo livello, un altro 0,5 miliardi. Perché il punto che ha fatto inabilare le regioni è: ma come, noi abbiamo 2 accordi quadro tra regioni e governi, sia quelli che hanno preceduto questo sia quello attuale, che disciplinano l'andamento del più della nostra spesa, quello della sanità, e adesso qua si contravviene questo patto? Questo è l'argomento formale invocato da Chiamparino. Stamattina Chiamparino, dopo un durissimo scambio di opinioni che già risaliva a ieri con il Presidente del Consiglio, ha chiesto a Renzi di un incontro con i presidenti delle regioni, nei quali il suo impegno è quello di proporre una soluzione analoga, cioè a costo zero ma diversamente distribuita, però non è entrato nei particolari. Allora, per capire nel merito, al di là del giudizio politico, poi telefonateci voi per dirci se secondo voi hanno ragione i presidenti delle regioni a protestare oppure no, se temete che, come i presidenti di regione hanno detto, saremo costretti, se ci imponete questi tagli, ad alzare ulteriormente le tasse a livello locale, se pensate che possa andare a finire così, oppure se pensate che si troverà una soluzione. Diteci come la pensate. Però al di là di questo, si tratta di vedere nel merito, tecnicamente, chi ha ragione e chi ha torto in base agli accordi che invoca. Cioè, hanno ragione i presidenti di regione a dire: questi 2 accordi sono, primo, la definizione del cosiddetto costo standard della sanità, e ne riparleremo oggi perché il nostro ospite ne sa qualche cosa. Dice: ci eravamo messi d'accordo e quindi il governo non è che può dire adesso che non c'è un accordo, e noi a quell'accordo ci stiamo attenendo, tant'è vero, dicono, che nella ripartizione dei trasferimenti tra governo e regioni in quest'anno sono stati un po' più premiati chi era più in alto in quella graduatoria e un po' penalizzati chi era più in basso. Poi quell'accordo fa parte anche, da diversi anni, i piani di rientro coatto per le regioni che hanno sfondato in sanità, la Campania, la Calabria, anche il mio Piemonte non è che stia messo molto bene. E poi c'è un secondo accordo che risale invece a questo governo a luglio, con il quale questo governo, nella persona del Ministro della Sanità Lorenzin, ha sottoscritto con le regioni le quote di finanziamento del Piano Sanitario Nazionale, aumentandole di 6 miliardi e rotti, da 109 miliardi per il 2014 a 115 miliardi al 2016. E quindi dicono i presidenti di regione: ma se lo abbiamo sottoscritto con voi questo accordo, adesso di quei 6 miliardi spalmati di aumento, di spesa di aumento, spalmati in 3 anni, ce ne chiedete 4 subito in un solo anno? Ecco, hanno ragione o hanno torto? Ce lo facciamo spiegare e interpretare da nostro ospite, che insegna diritto costituzionale all'Università di Padova, è autore di un libro che vi prego di leggere se non l'avete già fatto, che si intitola Federalismo all'italiana, dietro le quinte della grande incompiuta, che è uscito l'anno scorso, e che è presidente della Commissione Tecnica per il Federalismo Fiscale presso il Ministero dell'Economia, il professor Luca Antonini. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Oscar, grazie. Allora, iniziamo da questi 2 accordi, quello del costo standard e poi andiamo al Fondo Sanitario Nazionale. Le regioni hanno torto o ragione a invocare quegli accordi come vincolanti di un quadro che quindi disciplina i loro bilanci pluriennali in una modalità rispetto alla quale, dicono loro, i governi, siccome li abbiamo firmati con loro, non avrebbero adesso da far sorprese? Allora Oscar, io dico questo, nel libro che tu hai citato, ti ringrazio, sai quanta impegno, dedizione e scientificità ho messo nel dimostrare gli sprechi delle regioni. E quindi è stato un lavoro capillare. Io parlo di regioni canaglia che hanno dei buchi sulla sanità che sono assolutamente ingiustificati, che spendono tanto e fanno servizi che funzionano poco, no? E questo è il presupposto da cui parlo. Però dico anche che oggi la spesa di investimento in Italia dipende per oltre la metà dagli enti locali. Se tu dal giorno alla notte decidi un taglio lineare di diversi miliardi di euro, non in conformità a quello che hai programmato, tu avrai una ricaduta e sui servizi e sugli investimenti e sulle imposte anche regionali, perché non si può governare così il sistema. Dice, c'è un principio di coordinamento della finanza pubblica che o viene rispettato anche dallo Stato oppure il sistema non tiene e finirai per penalizzare gli efficienti e per non riuscire a recuperare gli inefficienti, che tanto continuano come prima, perché lo Stato, così come ti inventa dal giorno alla notte i tagli lineari, poi dopo, se c'è qualcuno in estrema difficoltà, ma perché spende male, lo ripiana tranquillamente, perché noi continuiamo ad assistere a questo scenario. Allora bisogna aprire un po' di riflessione su questo aspetto. Secondo me non si può continuare così. Quello che è successo a livello locale è emblematico. Siamo partiti dall'IMU che doveva essere a costo zero, poi abbiamo incominciato coi tagli, l'abbiamo alzato l'IMU e alla fine ci troviamo all'inferno fiscale che oggi si verifica a livello dei comuni e i cittadini non capiscono più niente. Allora, qui ci vogliono delle regole, ci vogliono le regole di coordinamento che devono essere rispettate da tutti, non si può far saltare la programmazione dal giorno alla notte, anche perché se no rischi pesantemente l'incostituzionalità e poi questi tagli ti ritornano indietro, devi trovare il modo per coprirli, capito? Perché sennò vai in infrazione anche europea, per cui dico non si può scherzare col fuoco. Tieni conto, ho detto, le regioni l'ho messo in evidenza, forse io per primo, prima ancora che ne parlassero i giornali, il Corriere della Sera e tanti altri, capito? Appunto, l'ho messo io per primo in evidenza. Nel 2009 parlavo dell'albero storto della finanza pubblica, no? Per dire tutti gli sprechi che c'erano. Però dico, lo stesso, come ho detto quello, oggi dico che non si può fare così, anche perché la Corte Costituzionale certe cose non le fa passare e fa bene perché tu fai saltare la programmazione degli enti locali e chi ne andrà di mezzo è la spesa buona. I tagli lineari scacciano la spesa buona e mantengono la spesa cattiva. Perché a quel punto, dici tu, è ovvio che queste condizioni davvero, come dicono i presidenti di regioni, si taglia sui servizi, non sul perimetro, sui costi fissi, su quelli dei costi di acquisizione dei beni interni. Le regioni efficienti, noi abbiamo 4 regioni in Italia che sono il bene, la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana, hanno dei sistemi eccellenti, sono delle esperienze, dei modelli mondiali, non hanno il resto del mondo. Noi rischiamo di rovinarli con queste tecniche, rischiamo di farli saltare, capito? Allora non si possono fare tagli in questo modo, capito? Se si sono stabiliti i costi standard, si devono rispettare quanto è stabilito quei costi standard. Pur non essendo io e te d'accordo su come sono stati fissati, questo. No, io direi che sono più d'accordo con te. Esatto. Pur non essendo. Però, vedi, se vogliamo fare le cose ordinate, devono essere fatti meglio. Ecco, le hanno stabiliti in quel modo, non è che si può far finta che non ci siano, perché altrimenti poi infatti, il presidente di regione il suo bilancio poi lo fa così, se no come fa? Certo, invece, cioè questo qui c'è un principio di programmazione che va rispettato. I LEA, a un certo punto, se lo Stato vuole dire io voglio abbassare le imposte, capisci? Le imposte mie, perché qui è poi il paradosso che va a abbassare le imposte delle regioni, perché abbassa l'IRAP, capisci? Chi lo paga l'abbassamento dell'IRAP, che si chiama imposta regionale sulle attività produttive? Cosa succederà? Che ancora alle regioni andrà un altro pezzo in più di IVA. Oggi il 50% dell'IVA va alle regioni, domani andrà il 60% dell'IVA. Nessun cittadino sa che l'IVA finanzia la sanità delle regioni, quindi mettiamo a finanziare la sanità delle regioni con imposte deresponsabilizzanti. Allora così non si può continuare, capisci? Allora dico, ci vuole un principio per cui lo Stato dice io voglio abbassare le imposte, riduco i livelli essenziali, mi assumo la responsabilità di dire calcolati al costo standard, alle regioni non do un euro in più dei livelli essenziali calcolati al costo standard, e se uno spreca, se la veda con gli elettori, e se non se la vuole vedere con gli elettori, io lo commissario, capisci? Noi dobbiamo avere uno Stato coordinatore che coordini davvero, davvero, cioè uno Stato forte. Forte. Noi abbiamo uno Stato debole, il centralismo è stato debole, è stato debolissimo, che non riesce a commissariare gli inefficienti e poi va a penalizzare gli efficienti. Allora, su questa accorata spiegazione, che viene da una delle persone che più si è occupato in tutti questi anni di capire e comparare i bilanci regionali, innanzitutto che non erano scritti con criteri contabili omologhi, e questo vale per tutte le autonomie italiane, solo lentamente dall'anno prossimo inizia il processo di omologazione, io spero che vi sia arrivato il messaggio di una persona di cui fidarsi. Ecco. Non stiamo dicendo che le regioni hanno un mucchio di sprechi, perché, ripeto, il professor Antonini, leggetevi il libro, ne documenta. Aiosa. Detto questo, bisogna procedere in maniera ordinata. Se si fanno degli accordi, poi bisogna rispettarli. Il punto diventa: ah sì, ma adesso la condizione è peggiorata, quindi io devo tagliare e taglio. Benissimo, però allora a quel punto bisogna vedere in maniera coordinata come evitare che i tagli diventino dei boomerang, o che la Corte dica no, o che non vengano adottati, o che puniscano chi ha i servizi migliori, che è la cosa più probabile, oppure che diventino altri aumenti impropri di imposte traslate ancora più caparbiamente folli rispetto alla finalità poi di tenere in piedi la sanità. Questo è un problema che non significa disconoscere i meriti del governo, il tentativo di farci. Però, voglio dire, da chi, come il professor Antonini, se ne occupa, secondo me, ecco, bisognava chiedere a quelli come lui qual era la cosa migliore da fare. Però, naturalmente, siete liberi di pensarla come volete. Intanto abbiamo strade, poi sentiremo ai microfoni voi che ci telefonate. Strade! La versione di Oscar. Rispondo subito a tantissimi ascoltatori che mi accusano di essere antirenziano per pregiudizio, perché io ho sempre attaccato gli sprechi delle regioni. Continuo ad attaccarli, non so se vi è chiaro. Cioè, io avrei preferito, per questo avrei preferito la linea Cottarelli da aprire. Cioè, un governo che dicesse, dobbiamo rivedere il perimetro, innanzitutto, della pubblica amministrazione, perché così si fanno le scelte vere, non i tagli lineari. Per esempio, le partecipate regionali, il governo poteva, ma anche in questa legge di stabilità potrebbe dire: cari signori, dovete scioglierne X, fonderne Y, questo è l'incentivo, chi non lo fa, questa è la sanzione. Trovate invece il penultimo articolo della legge di stabilità, in cui si impegnano tutte le autonomie, comune, province e regioni, a ordinare un piano entro marzo dell'anno prossimo di incentivi e razionalizzazioni, ma non c'è scritto né qual è l'obiettivo, né se ci sono incentivi a farlo, né quali sono le sanzioni per chi non lo fa. Allora, quella è la strada da seguire, perché per esempio nelle partecipate, oppure di che cosa vogliamo parlare? Abbiamo già fatto in molte trasmissioni dei costi degli organi, vogliamo parlare dei vitalizi? Lo ripeto, noi spendiamo in vitalizi per consiglieri regionali e parlamentari 12 volte ciò con cui l'India ha mandato il suo satellite su Marte, 12 volte, quindi figuratevi se mi dovete convincere. Ma quello che non si può fare è continuare ad andare avanti a strappi, come abbiamo fatto dal 2011 a oggi. Ogni volta diciamo che cambiamo il metodo e ogni volta ci ritroviamo poi incasinati. Ecco, questa è la mia obiezione di fondo, solo questa, non è un'obiezione politica, è di metodo. Stefano da Palermo, come la pensa? Buonasera. Buonasera. In effetti io vorrei sapere qual è la vostra opinione su quella che sulla tesi che io esprimo in questo momento, cioè che la verità è che da tempo ci siamo accorti che l'esplosione della spesa pubblica è connessa alla riforma del titolo quinto della nostra Costituzione. Che è in corso. Ora, che è in corso. Che è in corso, ma io mi chiedo, ma il nostro Presidente del Consiglio, piuttosto che spingere l'acceleratore su altre riforme costituzionali, così come ha fatto raggiungendo fino ad ora qualche risultato, non avrebbe fatto meglio a spingere di più l'acceleratore sulla riforma del titolo quinto della Costituzione, perché è lì che bisogna risolvere. Tento di interpretare, perché lui su quella ha spinto sull'acceleratore per cambiare il Senato al titolo quinto, sui tempi e sul contenuto, perché lui in realtà né ci si parla di accorpamenti regionali, non si tocca l'autonomia speciale. Io ho detto mille volte come la penso l'autonomia speciale siciliana, per esempio, è diventato uno scudo di inefficienza. In questo, se dici questo, sono d'accordo con te, perché quella era l'occasione per ridisegnare le autonomie italiane, non c'è dubbio. Benissimo, lei interpreta meglio il mio pensiero, proprio così. Grazie Stefano, ed è vero che quello era lo strumento, secondo me, per fare quello che dice il professor Antonini, oltretutto. Franco da Treviso, prego Franco. Sì, buonasera. Niente, seguo con molto interesse la sua trasmissione. Comunque, volevo dire una cosa. Non riesco a capire come mai si va sempre a toccare i servizi e la povera gente in sostanza. Mentre i privilegi che ci sono, quelli non vengono mai toccati. E non riesco a capire come mai anche questo governo non riesca a capire che il problema non è tanto andare sempre dai cittadini. Il problema deve anche lui capire che non può mantenere certi ritmi di così spreco. Perfetto Franco. Walter da Modena, come la pensa? Buonasera Gianino. Buonasera. Ma io sono d'accordo con Renzi, perché sono 10-15 anni che ormai i governi fanno delle azioni di obbligare i comuni, le regioni e compagnia bella a risparmiare, e si sono sempre lamentati, poi alla fine ce l'hanno sempre fatta. Io questa mattina sentivo una trasmissione di dove era presente Maroni, presidente della Lombardia, sì, che diceva che i tagli lineari non vanno bene, e potrei anche essere d'accordo, ma se si facessero i tagli mirati si potrebbe risparmiare non 4 miliardi come ha chiesto il governo, certo, ma bensì 30 miliardi, sì, parlare. Quindi vuol dire che c'è un margine ancora di grasso, di sprechi da eliminare enorme. Io sono convinto che ce ne sia veramente tanto da recuperare, certo, perché non lo sa neanche loro quello che, come spendono i loro soldi esattamente, a mio avviso, o lo sanno e gli fa comodo che sia così. Allora, una risposta intanto all'ascoltatore che chiede di sapere le cifre dei vitalizi. Fate conto, in euro l'India ha dichiarato di essere andata su Marte per 54 milioni di euro. La cifra ufficiale che noi sappiamo è che purtroppo manca di quella di 4 regioni, e che sommando la cifra dei vitalizi dell'anno scorso delle regioni e dei parlamentari arriviamo a 592 milioni di euro. Quindi il rapporto era quello che vi avevo detto. Professore Antonini, moltissima gente qui dice sì, però bisognerà pur ricominciare, quindi questi continuano a sprecare. Lei che risponde? Ma allora, gli sprechi non è che stanno solo dalla parte delle regioni. Io non credo che l'amministrazione centrale sia migliore dell'amministrazione di certe regioni, probabilmente è molto migliore di quella di alcune regioni, ma non è sempre il meglio. L'amministrazione statale è stata tagliata in percentuale dal 2009 al 2012 del 12% sulla spesa primaria, la spesa primaria delle regioni è stata tagliata del 38%, quindi c'è una bella differenza anche di dove sono arrivati. Diciamo sempre, professore, per spiegare a chi è a casa, che questi tagli in percentuale non sono sulla spesa precedente reale, sono sul tendenziale di spesa che si accumulava negli anni, che è cosa un po' diversa. Sì, ecco. Sì, infatti, e quindi, però diciamo che l'ammontare comunque non è indifferente. Io sono convinto che esistano delle enormi sacche di spreco nel nostro sistema, e una l'hai citata tu, le partecipate. Non si fa nulla. Speriamo di vedere, ma magari adesso in questi due giorni fanno l'incontro e mettono a fuoco esattamente queste cose. Poi lo facciamo noi per proporre, non per criticare e basta. Grazie al professor Antonini, continuate con le 24, appuntamento con me a lunedì.